2024 2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:38 minuti, bentornati a 2024. Saluto come sempre Paolo Corleone, che oggi si occupa della parte tecnica, è tornato in regia dopo un po' di tempo. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta è 800 24 0024. Se volete comunicare con noi in altro modo, c'è la email, c'è Facebook, ci sono gli SMS 349 238 6666. Nella seconda parte sentiremo la vostra voce, perché ci faremo una domanda. Sta esplodendo il video, soprattutto online. Gran parte dei dati trasmessi su internet sono video, però sta decrescendo, sta calando il mercato delle videocamere. Allora, ci sono altri modi per registrare video e da qui partiremo nella seconda parte. Nella prima parte, cioè adesso, tra pochissimo, abbiamo un po' di notizie. Partiamo da Nokia. So now I am going to just ask everybody to put away your cameras. Turn off all of the recording devices. Quella che sentite è la voce di Stephen Elop, l'amministratore delegato della Nokia, che chiede ai giornalisti di spegnere le proprie videocamere e tutto ciò che registra, perché sta per mostrare qualche cosa di molto confidenziale. That is super confidential and we do not want to see out in the blogosphere. Beh, un po' fa ridere, super confidential. Nokia ha mostrato ai giornalisti il primo prototipo di smartphone con sistema operativo Windows Phone, nome in codice Sea Ray, raggio di mare, del mare. C'era molta attesa, direi che Nokia ha mostrato questo nuovo prodotto giusto per ribadire che si sta lavorando per far uscire sul mercato il primo Windows Nokia entro la fine dell'anno, come del resto promesso più volte. Vanno fatti complimenti anche alla strategia di comunicazione di Nokia, perché nessuno crede che Elop sia così ingenuo da credere che basti chiedere ai giornalisti di non fare foto o video per tenere tutto dentro la stanza della conferenza. Insomma, tra l'altro c'erano anche parecchi giornalisti e infatti poche ore dopo questo video girava su tutti i siti del mondo. Non si vede moltissimo, ma si vede questo nuovo smartphone che ha come sistema operativo Windows Phone. Sempre questa settimana Nokia ha presentato il nuovo N9, il primo smartphone con sistema operativo MeeGo, sistema operativo basato su Linux, sviluppato assieme ad Intel, in arrivo all'inizio dell'autunno. Sarà, come molti dicono, il primo e ultimo con questo sistema operativo, perché dopo poco uscirà Windows Phone, telefono che gli esperti, insomma, chi ha visto dice molto bello, ma non si capisce poi chi lo comprerà, visto che poche settimane dopo appunto arriverà il Windows Phone di Nokia. Sono già iniziate invece le vendite del BlackBerry Playbook, il nuovo tablet di RIM, che essendo basato su un proprio sistema operativo è sicuramente l'alternativa più interessante al duopolio di cui parliamo spesso 2024, cioè quello formato da iPad e tutta la lunga lista di prodotti con sistema operativo Android, cioè chi ne ha contati un centinaio. Questo è un tablet da 7 pollici, quindi un po' più piccolo rispetto al benchmark, cioè all'iPad, pensato prevalentemente per il mondo business, come ci ha spiegato l'amministratore delegato di RIM Italia, Alberto Acito. E lo definiamo un prodotto professionale, non solo per i professionisti, credo che sia una frase che riassuma molto bene le caratteristiche e il posizionamento di questo nuovo tablet, che tra l'altro abbiamo lanciato in Italia proprio in questi giorni. Stiamo già contattando tramite la nostra rete distributiva le tantissime aziende e imprenditori che utilizzano il BlackBerry, perché chiaramente una delle caratteristiche più interessanti è proprio come dire, il dialogo tra il BlackBerry, tra lo smartphone e questo tablet, che è immediato, permette di accedere con lo schermo di 7 pollici alla email, ma non è pensato solamente per un uso business, perché grazie alla tecnologia che poi incorpora, un sistema operativo potentissimo, al supporto del flash e alla multimedialità, banalmente collegato a una TV in alta definizione, in streaming da internet, con i nuovi canali tematici che sono oggi disponibili, permette di condividere contenuto multimediale in famiglia e quindi un uso anche più consumer, per non parlare delle tantissime applicazioni, i giochi elettronici. Lei ha citato il sistema operativo, che è un sistema operativo vostro, di BlackBerry, di RIM. Quali sono le caratteristiche che pensate possano essere vincenti in questo sistema operativo in un mondo che si sta concentrando su altri sistemi operativi? Direi che il fatto di sviluppare un sistema operativo rappresenta per noi un grandissimo punto di forza, perché possiamo controllare l'esperienza utente, che è uno dei fattori chiave nel nuovo mondo della convergenza tra informatica, telecomunicazioni ed internet. E questo era Alberto Acito, amministratore delegato di RIM Italia. Sicuramente l'azienda punta molto su questo prodotto, perché soprattutto negli Stati Uniti le quote di mercato di BlackBerry stanno calando lievemente. Ci sono stati anche dei movimenti di borsa nelle ultime settimane che hanno segnalato qualche dubbio tra gli investitori, perché ci si sta spostando gradualmente verso prodotti più consumer oriented, e quindi BlackBerry, che si posiziona soprattutto nel mondo business, sta cedendo qualche quota di mercato, nonostante i prodotti, ma chi li utilizza lo sa molto bene, siano prodotti estremamente affidabili, molto robusti, con batterie che durano molto tempo. Adesso c'è la viabilità, anzi no, noi vi proponiamo un'intervista che abbiamo realizzato con Francesco Pizzetti, che è il garante della privacy. Sapete che in questo periodo le autorità nazionali tengono le loro relazioni annuali. Questa settimana è stato il turno del garante per la protezione dei dati personali, come si dice, quello della privacy authority, presieduta da Francesco Pizzetti, che ha toccato molti dei temi di cui parliamo 2024. Ve ne proponiamo due relativi all'uso degli smartphone e del cloud computing. Ecco Pizzetti intervistato da Paolo Riva. I rischi ci sono, ma soprattutto il rischio è che la gente per lo smartphone e le imprese per il cloud non abbia chiaro gli effetti di queste tecnologie. Allora, per gli smartphone il problema è che il telefonino è costantemente in contatto non solo con il gestore telefonico per essere agganciato alla cella telefonica, ma anche per poter ricevere ed essere in contatto con tutto il sistema di applicazioni che viene fornito, e questo implica una costante permanente localizzazione degli spostamenti che il telefonino fa. Nessuno ha chiaro se questi dati sono anche raccolti, se sono utilizzati, cioè i dati relativi allo spostamento del telefonino. È un pollicino elettronico, nel senso che io semino involontariamente un sassolino, cioè il mio telefonino semina continuamente dei sassolini per mantenersi agganciato alla rete internet. Come è possibile ovviare a questa situazione? Perché molto spesso appunto le applicazioni, per svolgere la loro funzione, chiedono dei permessi che più o meno consapevolmente vengono l'utente dati. Dà. Quindi come si può ovviare a questo problema? Certamente il problema è innanzitutto che le autorità, la comunità internazionale, ma soprattutto il mercato degli utenti, chieda a ciascuna applicazione, prima di dare l'autorizzazione, di capire un attimo che uso viene fatto dei dati, quali dati vengono utilizzati, quanto tempo vengono tenuti, se vengono usati per altre finalità, e pretenda di avere una informativa di rischio, cioè mi dica: guarda che io per darti questo servizio dovrò usare dati di localizzazione, dovrò necessariamente utilizzare i dati del posto dove sei. Qual è secondo lei ad oggi quindi la consapevolezza del pubblico e degli utenti italiani in materia? La maggior parte delle persone è ammirata degli effetti che l'applicazione, positivi ovviamente, che l'applicazione gli consente, e non si interroga sulle implicazioni. A proposito di consapevolezza, forse è importante cominciare a parlare anche di tecnologie che non sono ancora molto conosciute, ma si affermeranno probabilmente su larga scala. Lei ha parlato anche di cloud computing. Sì, cloud computing è una immagine poetica, no? Il cloud sarebbe la nuvola, in realtà è terribilmente ingannevole. Il cloud è particolarmente appetibile perché consente di stivare i propri dati aziendali, i dati di un grande istituto finanziario, i dati domani dell'anagrafe tributaria, i dati di una grande banca dati di polizia, non più su un server che devo avere in casa. Anche i dati sono conservati su server di cui non conosciamo la localizzazione territoriale, e quindi noi di fatto perdiamo il controllo materiale sui nostri dati in due sensi: primo, perché non li abbiamo più nella nostra disponibilità materiale, non essendo in più in server a nostra disposizione da noi organizzati; secondo, perché ne possiamo perdere persino il controllo come conoscenza, perché io non so se sono in un server in Malesia o se sono in un server collocato in Albania o sono in un server collocato a Tuscolano. Dipende, e la cosa più interessante è che sono gli stessi, le stesse grandi società di cloud che possono non saperlo, perché la tecnologia in questione funziona anche ottimizzando al massimo gli spazi. Insomma, per fare un esempio che sia chiaro a tutti, è come se io lascio un'automobile a un'autorimessa pubblica che mi dice: io ti garantisco nel momento in cui ti serve l'automobile che te la rimetterò a disposizione nell'arco di 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti. Io ho un silos di 20 piani, in ogni piano ci stanno 500 automobili, la metterò nel posto per me più conveniente a seconda delle disponibilità e dell'utilizzazione del silos. Tu quello che sei sicuro che io in 5 minuti te la consegno al momento in cui me la chiedi. È bello l'esempio dell'automobile in un silos, ma se io comincio a pensare che i server sono sparsi in tutto il mondo, può succedermi un incendio come è capitato ad Aruba, può succedermi un furto tecnologico come è capitato a Sony. Ora, sono tutte e due tecnologie non arrestabili. Noi non possiamo immaginare di bloccare queste tecnologie, ma dobbiamo governarne tutte le implicazioni. Ha ragione Pizzetti, garante della privacy. Non possiamo arrestare tutto ciò che commentiamo settimana dopo settimana, ma è bene che siamo consapevoli delle conseguenze eventuali. Anche per questo motivo consigliamo l'ascolto di 2024. Ci fermiamo, breve pausa e riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata nella seconda parte dopo le notizie di GR24 delle 16. Parleremo di video, non necessariamente di videocamere, ma cercheremo di capire come mai le vendite di videocamere calano e si fanno sempre più video. Beh, naturalmente ci sono mille altri modi e parleremo proprio di quello. Adesso Wi-Fi, questo è un argomento di cui abbiamo parlato molto in passato e abbiamo spesso detto che offrire una connessione Wi-Fi può essere anche un fattore competitivo in alcuni ambiti. Pensate ad esempio ad un albergo, è ormai noto che molti clienti, almeno lo si vede da molte ricerche, scelgono l'albergo anche in base alla disponibilità del Wi-Fi gratuito. Sentite che cosa si sono inventati a Cervia, sulla riviera romagnola, dove in fatto di offerta per i turisti possono dare lezioni direi in tutto il mondo. Un grande hotspot Wi-Fi gratuito è operativo da ieri. Il progetto è stato realizzato da Acanto, che è una società di telecomunicazioni che gestisce alcune migliaia di chilometri in fibra ottica tra l'Emilia e la Romagna. Roberto Vancini è il direttore generale. In effetti Acanto nasce 10 anni fa con l'ottica di sviluppare una rete in fibra ottica. Mi scusi il bisticcio di parole, ma con una, direi, una grande lungimiranza negli anni 2000 a posare fibra ottica sottoterra dopo l'esplosione della bolla internet era diventato una cosa veramente per visionari, ma io dico visionario in inglese, no? Quindi nel senso positivo della parola. E quindi questo progetto in questi 10 anni ha portato, ha sviluppato una rete in fibra che ora si estende per più di 3.000 chilometri fra Modena e Pesaro, area di territoriale di intervento di ERA, che è la nostra società, la Mutu Utility, che ci controlla a quasi l'80%, e ha consentito di costruire appunto questa realtà che è una NGN fin dall'inizio. Quindi mi fa molto piacere che il dibattito sia così importante in questo momento in Italia, perché noi siamo nati subito come NGN pagando gli scotti che delle tecnologie ancora poco affidabili all'inizio e molto in divenire, e per ora ci proponiamo sul mercato, come diceva lei, la ringrazio, come un gioiellino, comunque come qualcuno che fin dall'inizio ha creduto in questo tipo di rinnovamento sulle tecnologie. Ora siamo 130 dipendenti, abbiamo un giro d'affari di circa 40 milioni di euro, alcune migliaia di clienti collegati sulla nostra rete in fibra, sulla quale eroghiamo tutti i servizi di telecomunicazione, quindi la trasmissione dati, al VoIP, con ovviamente punti di eccellenza legate a chi della rete in fibra ottica ne ha realmente bisogno, quindi videosorveglianza, sistemi informativi estremamente estesi, il tutto peraltro innervato su un data center di circa 1000 metri quadrati che sta a Imola, dal quale anche in questo caso, anticipando un po' in tempi, eroghiamo servizi di cloud computing, che io ho chiamato in un modo molto più romagnolo il cielo in una stanza, no? Perché poi le nostre macchine stanno tutte lì e non sono in Islanda o negli Stati Uniti, devo dire anche un fattore territoriale importante per i clienti, che possono fisicamente ancora toccare, quindi addolcire lo stacco dalla macchina, ma soprattutto il fatto che con la rete in fibra noi portiamo a casa del cliente le velocità tipiche della rete locale, quindi hanno tutti i vantaggi di un data center, che va dall'H24 alla sicurezza fisica, ai sistemi di ridondanza che ci sono nei data center per le alimentazioni, energia elettrica, eccetera, ma non hanno lo svantaggio di, come spesso succede, una minore velocità locale, perché i collegamenti per noi sono totalmente trasparenti. Abbiamo clienti collegati a 1 gigabit, a 100 megabit al secondo. Diciamo che possiamo definire una rete locale su scala regionale, diciamo. Perfetto, così. Esattamente. Voi avete portato la fibra anche in spiaggia, avete realizzato questo progetto, che in sintesi come possiamo descrivere? Guardi, questo è stato veramente un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall'inizio, e voglio ringraziare anche tutte le persone che ci hanno lavorato, che hanno lavorato a questo progetto, in particolare anche il nostro direttore commerciale, che si chiama Donato Rocchi, che è un ex comandante di Marina, no? Quindi molto attento alle esigenze del mare. E l'idea è nata proprio dalla cooperativa Bagnini di Cervia, presidente Piraccini, persona estremamente dinamica e importante, che ha voluto approfittare, fra virgolette, di una profonda ristrutturazione di impianti che il gruppo ERA stava facendo per i bagni di Cervia, portando in particolare una nuova linea di acqua potabile, energia elettrica, eccetera, e hanno posato un tubo nel quale poi noi abbiamo potuto infilare la fibra ottica, collegando quindi ad oggi oltre 110 bagni di Cervia con tecnologia GPON. Mi scusi la sigla, però è un nome che si sente spesso sui dibattiti NGN nazionali, no? Fra Telecom, che sostiene questa tecnologia, invece gli altri operatori che sostengono il peer-to-peer. Insomma, noi abbiamo utilizzato anche la GPON, utilizziamo tutte le tecnologie disponibili, creando una rete, due reti, diciamo, una che collega i bagni, un'altra, una rete privata virtuale che collega gli stabilimenti, e un'altra rete su cui poi sono stati fissati una sessantina di antenne wifi, che hanno consentito quindi di coprire 9 chilometri di spiaggia in maniera ininterrotta, con oltre 100 megabit in aria, quindi una capacità veramente significativa di trasmissione. Peraltro in questa fase abbiamo collegato anche con tecnologia Hyperlan, in questa casa, quindi sempre via radio, partendo da Cervia, i bagni di Milano Marittima, nell'attesa che l'anno prossimo si possa completare l'infrastruttura in fibra ottica anche per loro. Ci è stata chiusa la finestra, giustamente, di lavori a terra, perché quando comincia il periodo di vacanze, ovviamente non si può scavare, non si può salire in spiaggia, bisogna lasciarla libera, insomma. Esatto, certo. E quindi questo ci ha consentito di fare questo progetto. L'investimento è stato di circa 350-400 mila euro, però devo dire un progetto nel quale tutti noi abbiamo creduto molto. Io ho coniato anche uno slogan, se mi consente. Negli anni 80 ci eravamo abituati alle Muscle Beach, no, della California. Ecco, noi abbiamo, la Romagna ha inventato ora la Smart Beach, o la Brain Beach, insomma, quindi spiagge dove oltre che rilassarsi, si può continuare ad essere collegati con il proprio mondo, no? Io penso a tutti i turisti che vengono in questo momento, ce ne sono circa 4 milioni e mezzo, no, di transito, ce ne sono molti che vengono dai paesi emergenti, quindi dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Cina, e anche loro, come i romagnoli, vogliono trovarsi i giornali locali, per esempio, no? E quindi nel proprio iPad tranquillamente si può leggere, scaricare la propria rassegna stampa, insomma, guardarsi le proprie cose e dare il via anche, quindi, oltre a tutto il mondo che ruota intorno all'entertainment. Sto pensando per esempio anche a tanti eventi in diretta che in Romagna vengono fatti e che possono essere tranquillamente veicolati in alta qualità su reti di questo tipo, ma penso anche per esempio ai sistemi per la sicurezza. Tenga conto che io ho una figlia di 8 anni e quindi, no, spiaggia, il problema è sempre quello di aver paura di perderla. Ecco, tutti gli stabilimenti hanno una TV interna, per cui un bambino che si perde, insomma, si può vedere la sua foto immediatamente su tutti i video wall e tutti gli schermi al plasma, gli LCD collegati su questa rete, no? Quindi sicuramente anche degli elementi innovativi che possono anche sviluppare molte nuove idee, no? Pensiamo alle prenotazioni dei ristoranti, pensiamo alle pubblicità dei servizi locali, insomma, sicuramente un mondo nuovo e che va comunque nella direzione che ci richiedono. Io dico che siamo diventati oramai tutti dei rabdomanti, non certo a cercare l'acqua, non andremo a cercare la Cervia, ma andiamo sempre a cercare la miglior connettività, no? Per avere la maggiore velocità possibile su questi dispositivi che ormai sono permanentemente con noi. Ecco. Lo ricordiamo, un accesso questo gratuito e illimitato o c'è un limite? No, non c'è nessun limite, guardi, la nostra rete è non ci sono né limiti temporali né limiti di quantità di dati scaricati, non c'è nessun limite. Devo dire che anche per noi questa è ovviamente una sperimentazione, no? Nella quale crediamo molto, quindi vediamo adesso alla fine della stagione, cominceremo a fare un po' di statistiche, cercheremo di capire esattamente come è andata e dove è possibile migliorare o dove è necessario mettere qualche regola in più. Però le dico, avendo appunto quell'alimentazione di questi hotspot in fibra ottica, la quantità di banda per noi è limitata fino alla saturazione dello spettro radio, che è l'unica vera limitazione che c'è, come in tutte le tecnologie che prevedono di collegare un terminale via radio, quindi dall'UMTS al GSM, le Wi-Fi, WiMAX, qualunque esso sia, la vera unica saturazione è lo spettro della banda elettromagnetica, che viene suddivisa da tutti i clienti che in quel momento sono collegati sotto la stessa cella. Poi è chiaro, ci sono dei discorsi estremamente statistici, no? Perché anche uno che si scarica il giornale, se lo scarica e poi se lo legge, quindi sì. Statisticamente anche download molto importanti non è detto che avvengano tutti contemporaneamente. Quindi, come le dico, faremo delle valutazioni alla fine del periodo. In ogni caso, al massimo si tratterà di mettere qualche hotspot in più in quelle zone in cui lo spot è quell'antenna, no, che copre, che crea appunto zona calda in cui ci si collega. Casomai metterle un pochino più fitte, esattamente come gli operatori di telefonia mobile mettono le antenne più fitte in città piuttosto che negli aeroporti, perché il numero di clienti è molto elevato e quindi bisogna soddisfarli. Ma avendo alla base una rete in fibra ottica, la capacità di alimentare questi spot per noi è assolutamente senza limitazioni. Poi ci sono, ma stiamo parlando di 40 giga, sì. 100 giga, cioè di numeri che sono oggi assolutamente irraggiungibili dalla parte radio. Senta, le faccio una domanda su, abbiamo parlato prima della rete in fibra ottica. Sì. Spesso seguendo i dibattiti oggi sulla fibra si parla di alcuni anche grandi operatori che di fatto stanno da un lato attendendo e guardando al dibattito nazionale di questa rete o delle reti regionali, perché insomma ci sono anche progetti naturalmente regionali, ma per quanto vi riguarda, voi di fibra ne posate ancora al di là insomma di questo progetto? Lei ci ha spiegato che avete messo fibra vicino alle spiagge, in generale ne posate ancora? Assolutamente sì, noi da quando abbiamo cominciato investiamo tutti gli anni come società dai 5 ai 6 milioni di euro, 6 milioni e mezzo di euro, e di questi direi almeno due sono dedicati al rilegamento dei clienti, perché purtroppo il rovescio della medaglia di queste reti nuove, di nuova generazione, che sono estremamente costose, che anche per collegare i singoli clienti si spende molto, no? Il costo del cavo all'interno del costo di rilegamento è una componente veramente quasi marginale, il costo reale è lo scavo per posare il tubo piuttosto che fare l'infrastruttura per ospitare il cavo in fibra ottica. Però, come dicevo, tutti gli anni, siccome la nostra società appunto sta crescendo, i rilegamenti fatti per i nuovi clienti che acquisiamo vengono sempre posati sul territorio, nell'ottica anche di fare delle estensioni di rete. No? Le faccio un'ultima domanda. Il vostro obiettivo principale è fornire connettività alle aziende. Esiste un progetto, una roadmap, come si dice, per diventare un operatore a più vasto spettro e quindi fornire connettività anche alla clientela residenziale, facendo anche concorrenza ai classici operatori con i prezzi degli altri operatori? Certo, guardi, forse prima mi sono espresso male, noi già facciamo anche questo, forniamo connettività, servizi voce anche ai residenziali, abbiamo delle tariffe e dei prodotti che sono assolutamente in linea con i prodotti e servizi degli altri operatori, e quindi è un segmento che già stiamo affrontando. Certo, non lo affrontiamo in questo momento con i grandissimi numeri, no? Perché l'investimento importante fatto sulla rete in fibra ci porta a privilegiare attività commerciali e di sviluppo fatte in quel segmento. Però noi già ora eroghiamo servizi ai residenziali e ne abbiamo alcune migliaia di clienti. Adesso con il nostro gruppo, il gruppo ERA ha circa 1,5 milioni di clienti, di cui 1,2 milioni circa sono clienti gas e 300.000 sono clienti elettrici, e di questi 100.000 100.000 clienti di ERA colloquino con il gruppo esclusivamente via web. Se su questi 100.000 clienti faremo un'azione di bundling, diciamo, dei servizi assieme al nostro gruppo, ecco che per noi i numeri potrebbero diventare significativi per la nostra piccola realtà. Ecco, poi noi non saremo mai, credo, la società ad avere 1 milione o 2 milioni di clienti, a meno che lo sviluppo invece della nuova rete che dovrà gestire la telelettura, il telemetering dei contatori, no, per dell'utility che sta partendo adesso, ci porti a creare questa rete che collegherà comunque 1.200.000 edifici proprio per fare il metering dei misuratori del gas o dell'acqua. Ecco, su questo abbiamo delle idee molto particolari, e questo potrebbe essere la svolta importante che ci porta nel mondo del residenziale, ma pensando soprattutto ai servizi di domotica, no? Servizi di domotica anche di base. Purtroppo continuiamo a leggere sui giornali di queste terribili morti bianche per il CO2 o perché la caldaia non funzionava bene. Una volta che noi si abbia un punto di rete all'interno per fare quindi la telelettura dei contatori all'interno di un edificio, risulterà molto semplice integrare con un sensore di CO2 che consenta di lanciare un allarme casomai al centro di controllo di ERA, dove ci sono 90 operatori con un video wall di 30 metri quadrati che controllano tutta la rete, e lanciare un allarme che viene raccolto da qualcuno e che può portare anche alla chiusura remota del contatore. No? E casomai con servizi che non saranno neanche più venduti da noi, ma che ne so, da un'assicurazione, che casomai abbassi il premio se installa, se hai l'allarme, se hai il sensore. Esattamente, certo. Ecco, esattamente come stanno cercando di fare con i black box sulle automobili, no? Per capire. Quindi, cioè, ecco, il mondo, questo mondo qui, allora ci potrebbe dare una chiave completamente. Le smart TV è un altro elemento importantissimo, no? Perché il 50% delle famiglie oggi non ha un PC in casa e quindi non ha un collegamento ad internet. Ma le smart TV con queste applicazioni che stanno diventando sempre più fruibili, sempre più gestibili anche dalle persone anziane, e quindi questo potrebbe essere lo snodo, può portare a un accesso internet, non tanto per l'accesso internet ma quanto per l'acquisto di un servizio. Ancora una volta potrebbe essere la telecamera o la videocamera per la sicurezza, ma potrebbero anche essere servizi di interazione con la multi-utility che casomai ti avvisa in tempo reale che stai consumando troppa elettricità, che quindi forse è meglio che spegni la lavatrice perché sei entrato in una fascia di costo che è troppo elevato, oppure ti dice che nell'ultimo weekend hai consumato 300 litri d'acqua in più, quindi o hai lavato l'automobile o hai dato l'acqua al giardino oppure hai un buco nella... hai un buco ecco, ti sei rotto la conduttura, no? Quindi questo è lo scenario che forse ci affascina di più per il residenziale. Era Roberto Vancini, direttore generale di Acanto, un'intervista che vi abbiamo proposto in versione integrale nella nostra versione podcast. Quella della sensoristica che grazie alla rete abilita una serie di servizi ha una prospettiva molto interessante, e soprattutto è interessante che questi servizi siano erogati dall'operatore che ci fornisce il gas, l'acqua o l'energia elettrica. Un'altra cosa che vale la pena sottolineare: avete sentito che in Emilia-Romagna c'è una rete in fibra ottica di migliaia di chilometri, e forse pochi lo sapevano. Anche in altre zone d'Italia ci sono chilometri di fibra già stesi, già collegati, che magari collegano aziende o pubbliche amministrazioni, e hanno ragione quelli che ritengono necessaria una mappatura del territorio contestualmente alla stesura di un piano nazionale per la costruzione di una nuova rete in fibra ottica, il cosiddetto o la cosiddetta Next Generation Network. Beh, ci si accorgerebbe che almeno in alcune zone del paese esiste già una discreta copertura in fibra. Ah, progetto nazionale che tra l'altro non decolla, e come diciamo spesso, 2024 la prospettiva più probabile è quella di un federalismo digitale con piani di diffusione della fibra su base regionale. Naturalmente torneremo a parlare di collegamenti in fibra, di piano nazionale o di piani regionali in una delle prossime puntate di 2024. Questo è un argomento che abbiamo sempre seguito, al momento non sta succedendo molto, quindi è per questo motivo che nelle ultime settimane non abbiamo parlato di questo tema. 2024 riprende tra poco. 2024. Sono le 16:10, seconda parte di 2024. Io sono Enrico Paglierini, Paolo Corleone si occupa della parte tecnica. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Vi ricordo il nostro numero verde perché vorremmo sentire anche la vostra voce, i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre considerazioni sul mondo del video. Parleremo tra poco di videocamere, fotocamere, smartphone, per cercare di capire come oggi si fanno le riprese con tutti i pro e i contro delle varie soluzioni e le tecnologie. 824 0024. Saluto Gianfranco Giardina che dirige il magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato, ciao, grazie di essere con noi. Grazie mille, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Prima di continuare, mi permetti di dire una notizia che non ho fatto in tempo, assolutamente, posso sì, dirla. Google è finito sotto inchiesta da parte dell'antitrust americano per presunto abuso di posizione dominante. Anche in Europa il motore di ricerca, lo ricordiamo, è sottoposto ad un'indagine dell'antitrust per verificare se abbia o meno utilizzato pratiche anticoncorrenziali, soprattutto nel settore della comparazione prezzi, perché Google si è messo a fare anche questo business all'interno del motore di ricerca. Da notare, è un particolare interessante, che la quota di mercato negli Stati Uniti è di circa 2/3, mentre in Europa Google supera ampiamente il 90% delle ricerche sul web. Quindi se ci fosse, naturalmente usiamo il condizionale, abuso di posizione dominante, la cosa sarebbe più grave in Europa, o forse più naturalmente verificabile in Europa che negli Stati Uniti, dove la quota insomma è un po' diversa. Chiusa la parentesi. Dunque, noi oggi parliamo di videocamere partendo da una considerazione: molto del video che gira su internet è generato, prodotto dagli utenti. Pensiamo ad esempio a YouTube è pienissimo di contenuti di questo tipo, che è un grande generatore di traffico. Si dice spesso, questi lo dicono soprattutto quelli che realizzano infrastrutture di rete per far capire che c'è bisogno di investimenti, comunque sia, è un dato vero che buona parte del traffico internet è video, e quindi buona parte di questo traffico è generato dagli utenti. Però, e ti chiedo Gianfranco se è vero e quanto è vero, qual è la dimensione di questo fenomeno, che il mercato delle videocamere negli ultimi tempi è, non dico crollato, ma comunque si è ridimensionato. Sì, la videocamera non è più quell'oggetto cool che era qualche anno fa, questo senza dubbio. Qualche anno fa una videocamera era un oggetto molto desiderato, adesso diciamo se si vede in giro qualcuno con una videocamera, intendo proprio il classico formato videocamera che si inserisce nel palmo della mano, no? E viene considerato un po' old fashioned. Un po' come uno che ha il borsello. Un po' potremmo dire una cosa simile. E non è poi giusto, no? non è giusto che venga considerato così, ma è un dato di fatto, no? Non è giusto perché ancora le videocamere hanno un primato qualitativo in molti ambiti che viene riconosciuto. Però un po' la comodità e un po' anche certi aspetti di qualità che vengono dal mondo delle fotocamere, e poi magari ne parliamo, stanno mettendo in discussione il ruolo delle videocamere, non quello del video. Perché il video si continua a fare, come giustamente osservavi, si fa in maniera un po' diversa. Prima il video significava una videocassetta, ecco, torniamo indietro di qualche anno, di diversi minuti, forse anche di ore, per raccontare una vacanza, per raccontare un evento, un qualcosa di molto lungo. Adesso col passaggio al digitale, dove il nastro non esiste più e praticamente tutte le sequenze video sono una serie di file, proprio come nel caso delle foto digitali, ecco, tutta la storia che si vuole raccontare, quindi magari condivido su YouTube, normalmente è un file solo, è un piano sequenza, non ha un montaggio. Resta sempre la possibilità col PC, anche molto facilmente, e ormai devo dire con tutti i PC di nuova generazione, di fare del montaggio sia in bassa che in alta definizione. Ma poi si verifica che gli utenti che effettivamente fanno questa post-produzione e il montaggio sono numericamente limitati. La maggior parte dei video che troviamo su internet sono shooting fatti con fotocamera, con videocamera o con smartphone, e così come sono, soprattutto se si tratta di uno smartphone, direttamente caricati sulla rete senza nessun tipo di intervento. Questo permette di essere sicuramente molto più veloci, molto più immediati, condividere con gli amici i propri video. Si perde un po' l'aspetto più cinematografico del girare i video, di essere registi, anche magari dilettanti, ma registi, e si diventa un po' così, reporter magari, diciamo, si andiamo più verso questo tipo di racconto video. Dunque, il nostro numero verde per chiamarci, e chissà quanti dei nostri ascoltatori sono passati dalla videocamera alla fotocamera anche per far video, o semplicemente allo smartphone, ci saranno molti che saranno affezionati alla videocamera. Numero verde 800 24 0024, ci risentiamo tra un minuto e andremo a Napoli. Numbers 2024. Numbers. Quello del mobile advertising, la pubblicità sui terminali mobili, è un fenomeno in crescita esponenziale, parallelo alla sempre maggiore diffusione della navigazione in rete via tablet e smartphone. A quanto ammonterà la spesa per la pubblicità sui telefonini e simili nel 2011? Numbers. 2024. Vi abbiamo domandato a quanto ammonterà la spesa per la pubblicità sui telefonini, il cosiddetto mobile advertising. Il giro d'affari, secondo Gartner, salirà quest'anno, alla fine di quest'anno, a quota 3,3 miliardi di dollari e si tratta di un livello doppio, di una quantità doppia rispetto al 2010. Prendendo in esame le diverse aree geografiche, Gartner ha rilevato come la regione cosiddetta Asia Pacific, quindi generalmente l'Asia, e anche il Giappone registreranno quest'anno investimenti di oltre 1,6 miliardi di dollari, quindi la maggior parte del traffico pubblicitario su smartphone e anche su cellulari avverrà appunto nell'area Asia Pacifico. Ci colleghiamo con Napoli, dove c'è Maria Chiara Grandis, che nel giro d'Italia della tecnologia oggi fa appunto tappa in via Arenaccia. Maria Chiara Grandis, ciao, bentornata. Ciao Enrico, buon pomeriggio. E sì, noi siamo venuti a Napoli proprio per parlare di video e lo facciamo, come hai detto, qui dal punto vendita Saturn di via Arenaccia. Ecco, qui abbiamo avuto proprio la conferma di quello che dicevate voi da studio, e cioè che oggi i video non si girano solo con le videocamere, c'è chi lo fa con gli smartphone. In questo caso sono soprattutto i più giovani che poi vogliono subito condividere i file sui social network, ci hanno raccontato. Molti invece preferiscono, come avete anticipato, utilizzare la fotocamera digitale, anche per girare video e non solo per scattare le foto. In questo caso ci hanno detto di preferire in assoluto le reflex digitali. E allora sentite quello che ci hanno detto proprio nel reparto che è dedicato a fotocamere e videocamere. Proprio ora ho finito di comprare una macchina reflex che permette anche di fare videoregistrazione. È una SIM reflex. Se parliamo di ambito proprio professionale, comunque devi sempre prendere un prodotto di fascia alta, però la vai a finire a costi tipo 5-6 mila euro. Oggi si può fare una ripresa video abbastanza discreta pure con 1000 euro. Cercando di attrezzarmi per comprare una fotocamera che faccia video full HD. Perché non acquista una videocamera invece? E ho due opzioni, fotocamera e videocamera. Io ho una macchina fotografica che fa anche riprese. E la trovo comoda perché portarne due ai dietro è fastidioso, no? Già la macchina fotografica è grossa. Sono di qualità i video che gira la sua fotocamera? Sì, abbastanza soddisfatto. Quella della fotocamera è migliore, rendendo un rapporto qualità-prezzo. Li fai anche con lo smartphone, per esempio? Difficilmente. Una macchina fotografica, che è compresa di USB, mi è più facile portarla al mio computer. Gianfranco Giardina, responsabile del magazine digitale dday.it, tra l'altro dopo vorrei anche citare alcune cose che avete provato nelle ultime settimane, perché come sai io leggo tutti i giorni e ho visto anche delle videocamere in questo caso piuttosto interessanti, però tornando alle risposte che Maria Chiara Grandis ha raccolto dalle persone che erano appunto nel punto vendita oggi a Napoli, il Saturn, è vero che le reflex anche nelle riprese video offrono le migliori performance? Direi proprio di sì, e per due motivi almeno. Il primo motivo è il sensore. Il sensore ovviamente su una fotocamera cattura normalmente 10, 12, 16, anche 24 megapixel e quindi deve essere molto grande. Il video, anche in risoluzione massima, full HD, sono 2 megapixel, quindi sono molti, molti meno. Questo fa sì che le videocamere abbiano un sensore generalmente molto piccolo. Le fotocamere invece abbiano un sensore generalmente molto grande. Se io metto questo sensore molto grande al servizio della ripresa video, ottengo delle immagini molto buone perché, come dire, catturo più luce, utilizzo più luce per definire l'immagine, quindi guardando dalla parte opposta è come se io potessi riprendere con maggiore qualità anche in situazioni di bassa luce. Quindi sicuramente il sensore grande aiuta moltissimo la qualità della ripresa. E poi ci sono le ottiche. Un'ottica che deve essere in condizione di alimentare, diciamo, con la luce un sensore più grande e con una risoluzione più alta ha una qualità più alta. Non a caso chi è appassionato di fotocamere e di fotocamere reflex sa benissimo che un corredo equilibrato si spende 100 euro, adesso faccio un numero a caso, 100 per il corpo macchina, se ne spendono 300, 400, 500 per tutto il parco ottiche. Cioè le ottiche sono la parte forse più costosa della fotocamera. Ecco, mettere anche qui al servizio del video vuol dire avere praticamente la qualità di una videocamera professionale, anche con una fotocamera reflex amatoriale. Ovviamente non ho una videocamera professionale, quindi qualche cosa in meno ce l'ho. Tipo, ecco, quali sono, diciamo, gli svantaggi nell'utilizzare una fotocamera, che sia reflex o normale, al posto di una videocamera? Allora, una fotocamera reflex non ha lo zoom motorizzato, quindi chi è abituato a fare abituato a fare quelle zoomate molto morbide, assolutamente regolari, con una videocamera, ecco, con una fotocamera reflex dovrà farlo girando la ghiera a mano sull'ottica, che molte volte vuol dire anche facendo traballare un po' l'immagine, e la zoomata non sarà uniforme. Per esempio, questo è sicuramente un primo difetto, ma anche lo stesso impugnatura, il grip che si ha di una fotocamera reflex è perfetta per fare immagini ferme, still, quindi per fare uno scatto e via, molto meno comoda per fare, non so, delle panoramiche, delle carrellate, cioè tutto quello che serve per come dire, per il linguaggio cinematografico classico. E quindi sono pro e contro che si sposano. Certo, chi già è motivato nella direzione di avere una fotocamera reflex oggi si trova anche la capacità di fare delle riprese a una qualità incredibile. Non dico un segreto se dico che alcune emittenti, ormai le emittenti nazionali, alcune parti, alcuni inserti che inseriscono nelle loro trasmissioni, che noi vediamo tutti i giorni in televisione, sono girati con delle reflex, e non delle reflex professionali, delle reflex sicuramente di buon livello, ma che sono nel corredo di molti amatori. Cioè, parliamo di macchine che costano quanto? Perché prima, diciamo, il cliente del negozio diceva 5-6 mila euro. No, costano molto meno. Con macchine da 2.000 euro, 1.500 euro si possono fare delle riprese video di qualità assolutamente broadcast. Il punto qual è? È che devono essere, per esempio, immagini probabilmente ferme. Sì. A treppiede, senza zoomata, ecco. Però per queste, per esempio, per fare un'intervista andrebbe benissimo usare una reflex, va benissimo, viene usata spesso una reflex al posto delle videocamere, anche perché la pastosità dell'immagine è molto buona, la profondità di campo che si riesce a ottenere è molto corta con le ottiche fotografiche, quindi il soggetto è molto a fuoco e lo sfondo è molto sfocato, che è una cosa che per esempio con le videocamere non è così semplice da fare. Sì. Senti, una videocamera di pari livello invece costa parecchio di più? Molto di più, bisogna andare assolutamente su modelli professionali. Non ci sono videocamere amatoriali che abbiano una qualità di ripresa come le migliori reflex. Altri vantaggi della videocamera, perché se non ce ne sono molti altri, le togliamo proprio dal mercato. No, beh, ce ne sono altri, perché per esempio alcune videocamere sono fornite adesso con un hard disk interno o con un memory molto grande e sono comunque molto comode, hanno la possibilità di avere l'ingresso per dei microfoni esterni anche diciamo con i collegamenti un pochino più professionali. Cioè le videocamere hanno ancora motivo di esistere, probabilmente quelle di fascia alta, medio-alta, sempre nel segmento amatoriale. Quelle molto economiche, beh, certo, soffrono, perché è chiaro che se io devo avere un sensore che ha una diagonale di 5 mm, come succede spesso nelle videocamere, contro una reflex che ha un sensore che ha una diagonale di 3 cm o 4 cm, beh, sono due apparecchi che non possono fornire che prestazioni molto distanti tra di loro. Sì. E quindi una videocamera amatoriale va a scontrarsi con le prestazioni di uno smartphone. Torniamo a Napoli. Maria Chiara Grandis, tu hai fatto un po' di chiacchiere con il direttore del centro commerciale, giusto? Sì, Enrico, perché se i video si girano sempre di più con fotocamere e smartphone, gli abbiamo proprio voluto chiedere allora come vadano le vendite di videocamere digitali, e poi invece con il responsabile di settore abbiamo fatto due chiacchiere sulle tipologie preferite dai consumatori e poi gli abbiamo chiesto anche qualche consiglio per scegliere quella adatta per noi. Sentiamo allora nell'ordine le voci di Alfonso Di Zio e poi la voce di Vittorio Buonfiglio. C'è chi dice che al momento le videocamere stiano un po' perdendo quote di mercato a favore di smartphone e fotocamere digitali. I consumatori dicono di fare video anche così. Voi lo riscontrate questo? Sugli andamenti di vendita no. Noi stiamo facendo delle ottime performance anche sulle videocamere, anche se in realtà c'è qualche cliente che comincia sempre di più a utilizzare smartphone o fotocamere digitali. Sicuramente sta arrivando sul mercato in maniera abbastanza determinante la videocamera 3D, perché si vendono parecchi TV 3D e quindi di conseguenza anche il consumatore vuole rivedere le immagini registrate. Al di là del 3D, ci sono delle novità di quest'anno per il settore? Tutte le videocamere Full HD, anche queste seguono un po' l'andamento che c'è sul TV. Ma oggi sicuramente si utilizzano molto di più i smartphone, nel senso che oggi i smartphone stanno in modo molto, diciamo, importante impattando sul mercato digitale in generale, perché comunque oggi sono un prodotto completo, riescono ad avere una qualità video elevata, quindi sicuramente è un prodotto che racchiude un attimino tutte le esigenze del cliente. Chi vuole girare video di qualità migliore, cosa vi chiede? Che videocamera scelgono di solito? Ma sicuramente una videocamera compatta con un prezzo medio sicuramente circa sui 2,99-3,99, con registrazione su memory card o hard disk. Sicuramente oggi la registrazione su memory card sta facendo la differenza, perché risulta quella più semplice per il cliente, più fruibile e sicuramente più comoda per la portabilità del prodotto. È l'accessorio che vendiamo di più sicuramente in abbinato a una videocamera. Come fascia d'età, chi è che acquista le videocamere? Oggi si è abbassata di molto la fascia d'età, nel senso che anche i giovanissimi si avvicinano molto spesso al mondo delle videocamere, fino ad arrivare poi ad amatori che possono avere anche, diciamo, un'età avanzata, però non c'è un range stretto sicuramente. E si è allargato soprattutto negli ultimi anni. Come facciamo a provare una videocamera? Il cliente può provare e istantaneamente vedere le immagini che sta filmando direttamente su dei monitor. Quando veniamo ad acquistare una videocamera digitale, quali sono le informazioni che dobbiamo portarci da casa? Ma sicuramente la durata della registrazione è importante, la qualità che poi si vuole ottenere dal video registrato sicuramente è un'altra caratteristica fondamentale. L'altra caratteristica che può fare la differenza è sicuramente la tipologia di utilizzo, quindi di giorno in presenza di molta luce, di notte in presenza di poca luce, quindi in funzione di queste informazioni noi poi possiamo consigliare e stradare l'acquisto del cliente verso un prodotto che possa, diciamo, soddisfare i suoi bisogni appieno. 2024. Le 16:33 minuti, riprende 2024. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Vi ricordo che a partire dal 9 di luglio, quindi dalla prima settimana piena di luglio, inizieremo una versione estiva del nostro programma di mezz'ora, quindi dalle 15:30 alle 16. Abbiamo già pensato ad alcune puntate, una delle prime sarà dedicata al cloud computing, di cui si parla molto, dedicheremo proprio un approfondimento per capire di che cosa stiamo parlando. Non di una novità assoluta, perché di cloud si parla già da molto tempo, ma sicuramente ci sono alcune discontinuità negli ultimi mesi e nei prossimi mesi vedremo altre cose interessanti che stanno facendo esplodere questo mercato dei servizi cosiddetti in the cloud. È con noi Gianfranco Giardina in questa puntata, responsabile del magazine digitale dday.it. Dunque Gianfranco, a proposito di D-Day, io ho visto recentemente una videocamera con due obiettivi, con due occhi, perché permette di fare riprese in 3D. Allora, se uno, premesso, mi sembra di capire che il 3D sia comunque ancora una cosa limitata a pochi, ci sono pochi contenuti già diciamo, disponibili dai produttori professionali di contenuti. Ci sono pochi sistemi per produrre in 3D, quindi immagino che sia ancora una cosa limitata a pochi. Però se uno vuole ed è appassionato di 3D, deve comprare una videocamera o vale lo stesso discorso che facevamo prima, cioè con la fotocamera può fare riprese in 3D? Allora, ci sono alcune fotocamere che possono fare qualche ripresa in 3D, però devo dire che il grosso vantaggio si sta vedendo adesso con l'uscita dei primi modelli di videocamera 3D a doppia ottica, che rispetto per esempio a alcune fotocamere o anche alcuni smartphone 3D che stanno uscendo in questi giorni, hanno un grandissimo vantaggio, quello di avere lo zoom. Quindi queste immagini sono zoom e le due ottiche che sono necessarie per la ripresa 3D sono ovviamente perfettamente sincronizzate, perché se fossero semplicemente leggermente non sincronizzate si creerebbe un effetto assolutamente fastidioso. E permettono delle riprese molto belle. Va detta una cosa, una ripresa 3D fatta con queste videocamere di nuova generazione è una ripresa anche 2D. Quindi può essere vista perfettamente full HD con un TV 2D. Oppure se si dispone o quando si disporrà di un TV 3D, si potranno rivedere le stesse immagini in versione 3D. Quindi un buon consiglio per chi è interessato a questo tipo di ripresa è quello di equipaggiarsi con questa videocamera, forse anche prima di avere il TV. Cioè, se il budget è limitato, il budget è limitato, è meglio spendere prima per la videocamera e poi per il TV. Questo perché intanto si catturano gli eventi del momento già in 3D, li si vede in 2D finché non si ha il nuovo TV, e poi si può passare alla visione invece tridimensionale quando si ha il nuovo TV, e l'effetto è sicuramente molto bello e molto piacevole. Tu dici l'effetto è piacevole, ma se uno ha visto un film in 3D, insomma, ci sono degli effetti che sono veramente molto coinvolgenti. Vale la stessa cosa per una ripresa fatta in modo amatoriale? In alcune scene di molti film 3D sono stati creati degli effetti tridimensionali eccessivi, un po' spinti, per stupire, sì. E questo è stato fatto alcune volte addirittura in computer graphics, neanche in ripresa reale, quindi questo poi vale vieppiù per tutti i film in 3D provenienti da animazione digitale, che quindi sono stati realizzati su computer. Ovviamente quel tipo di effetti così eccessivo non si riesce a ottenere, ma si ha una godibilità assolutamente buona della scena tridimensionale, cioè si riesce veramente a collocare nello spazio gli oggetti in maniera molto più precisa di quanto non faccia semplicemente la messa a fuoco, che è l'altro strumento che invece abbiamo nelle visioni bidimensionali per capire la profondità e il posizionamento. C'è una cosa in primo piano e in secondo piano. Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso? Prego, prego. Ecco, volevo chiedere quali caratteristiche sono necessarie o utili in una videocamera per poter fare anche fotografie singole che stampandole diano un buon risultato, non necessariamente di grandissimo formato, ma insomma. Quindi lei va in controtendenza, cioè adesso noi abbiamo detto che molti comprano la fotocamera per fare i video e lei invece è interessata a una videocamera per fare le foto. Perché? Come mai? Ma perché ritengo che sia molto più praticabile, poi sono vecchio. Quindi questi network, così, no, questi come chiamare social world, come social chiamate, network, sì. Non mi sembra che siano utili e produttivi. Io sono in parte d'accordo. Sento parlare tanto di privacy, riservatezza, coinvolgono l'autorità, questo e quello, poi uno spiattella tutti gli affari suoi su un luogo dove tutti possono accedere, poi se ne tiene se mette gli affari suoi in pubblico. Vabbè. No? Massimo, la ringraziamo per averci chiamato. Gianfranco, diamo un consiglio. Allora, le migliori videocamere riprendono in Full HD. Full HD, l'abbiamo detto, è circa 2 megapixel, una risoluzione di 1920x1080. Questo significa che nella migliore delle ipotesi, ammesso e non concesso di avere una videocamera eccellente, noi potremmo stampare queste foto, diciamo, a una dimensione di 10-15. ecco, come quindi piccole foto, abbastanza, cioè non ci possiamo piccole. Aspettare di fare delle gran foto, no, perché in realtà il video ha una risoluzione più bassa, perché diciamo questo calo di risoluzione è compensato dal fatto di avere delle immagini in movimento, e quindi chiaramente io non vedo il poco dettaglio magari che ho rispetto a una foto, perché tutto si muove molto velocemente. Però se io vedo una foto digitale o un fotogramma di un video, le cose sono molto diverse. Certo, nulla vieta di costruire una videocamera con un sensore invece molto più grande, in grado di catturare anche delle foto, e in parte anche esistono, potremmo dire, però sono di derivazione fotografica, cioè esistono dei modelli che sono nati come fotocamere. Poi il sensore, tutto il motore logico e anche le ottiche è stato in realtà ricostruito e rifatto, rivisto, rivisitato dall'azienda stessa, esiste per esempio un modello di Sony che ricordo bene, in chiave video. Quindi il telaio assomiglia a una videocamera, si impugna come una videocamera, in realtà il motore ottico che c'è dentro è una fotocamera, e precisamente è una mirrorless, cioè quelle che per esempio nella gamma Sony vanno sotto il nome di Nex. Questa videocamera è in grado di fare ottime foto, perché ha un sensore molto grande, è in grado di fare splendidi video come una fotocamera, insomma, di alto livello fa, però ha un layout, diciamo, tipico della videocamera, quindi si impugna con una videocamera, non certo, ha lo zoom motorizzato, questo non ce l'ha, però tutto il resto, e questa può essere una bella via di mezzo. Non è un prodotto economicissimo, questo va detto. Se invece si vuole stare su un prodotto più economico e ci si può accontentare della risoluzione più bassa, esistono delle videocamere che permettono anche durante la ripresa di schiacciare il tasto di scatto, quindi di fare delle fotografie anche durante la ripresa, che è molto, potrebbe essere molto utile. Per esempio si riprende un evento e nel frattempo, nei momenti migliori, si scattano anche già delle foto. In ogni caso ricordiamo che le migliori fotografie, una volta che uno ha girato un video che lo riprenda con una fotocamera o con una videocamera, diciamo, le fotografie si possono estrarre col computer, con un programma diciamo di montaggio video. Uno dice, beh, quella immagine mi piace, ci faccio una foto. Sì, beh, un fotogramma di un video non è propriamente una fotografia, nel senso che c'ha delle parti in estrarre. Movimento, è come se fosse una foto un po' mossa, sì, se la ripresa non è fissa, quindi non è la stessa cosa, non è propriamente la stessa cosa. Quindi non si può fare in assoluto? No, si può fare, però la qualità probabilmente non è adeguata. Ok, senti, la crescita esponenziale degli smartphone negli ultimi tempi ha messo in mano quasi di tutti una videocamera. In qualche modo tu noti che ci si stia anche un po' accontentando della qualità? Cioè uno dice, vabbè, ma chi se ne frega, ho fatto una bella divertente, diciamo, una ripresa che mi interessa, sulla qualità non ci siamo abituati ad una qualità più scadente. Sì, ci siamo abituati a una qualità più scadente, forse diciamo abbiamo scambiato la possibilità di avere l'immediatezza di condivisione rispetto alla qualità. Se noi torniamo indietro di qualche decennio, i video amatori in realtà giravano in pellicola, e prima giravano e poi potevano rivedere il proprio filmino, perché così si chiamavano all'epoca, dopo una ventina di giorni, quando il filmino è andato a farsi sviluppare in un laboratorio specializzato e tornava. Ieri, da qualche decennio oramai, possiamo rivedere subito quello che riprendiamo, addirittura farlo vedere amici e parenti anche lontani migliaia di chilometri è la frontiera degli smartphone. È chiaro che pur di avere questa immediatezza, ma anche poi abbiamo visto anche i video che finiscono spesso sui telegiornali di eventi particolari, mi viene in mente lo tsunami in Giappone, tutte le immagini che sono state mostrate sono state in larga parte riprese con degli smartphone, e sono state mostrate poi sui TG nazionali. Perché? Perché avevano quell'immediatezza di essere in quel posto, in quel momento, e di aver mandato il video immediatamente usando in questo caso le comunicazioni radio, quando tutte quelle comunicazioni a filo invece sono interrotte. 2024 riprende 2024. A proposito di Facebook, Alessandro ci scrive e ci chiede consigli sul salvataggio delle riprese fatte in full HD al posto delle vecchie cassettine. E aggiungo io, Gianfranco, a proposito di salvataggio, quindi di archiviazione delle nostre immagini, quanto occupa un video in full HD, visto che oramai praticamente tutte le cose che abbiamo sono capaci di registrare in full HD, anche molti smartphone, giusto? Allora, rispondiamo prima all'ascoltatore. Cercava un modo per mettere in salvo le immagini girate con la videocamera digitale nuova generazione. Semplicissimo, sono dei file. Basta prendere e copiarseli su, per esempio, un hard disk removibile, magari sul PC da un lato, e anche replicare la stessa copia sull'hard disk removibile, in modo tale da avere una doppia copia. Oppure in the cloud, con i servizi di archiviazione backup, anche se spostare i file video, esatto, sono file importanti, i tempi sono abbastanza lunghi. Un hard disk portatile da un terabyte, costa sicuramente meno di 100 euro, quindi una spesa assolutamente sostenibile. Che cosa ci sta però su un hard disk da un terabyte? Esatto. Allora, alla massima qualità delle migliori videocamere Full HD, quindi alla massima qualità possibile, direi almeno un centinaio di ore di ripresa su un hard disk. In realtà, se già si gira una qualità alta ma non elevatissima, la capienza raddoppia. Quindi su un hard disk da un terabyte ci stanno 200 ore di girato. Questo però ovviamente vale per gli hard disk, ma per le memorie che abbiamo all'interno della videocamera non sono così capienti, quindi qualche conto in più dobbiamo farle. Bisogna ricordare per esempio che su una memoria da 16 giga, che è la tipica dimensione di card di memoria venduta in questo momento, alla massima qualità ci sta 1 ora e 20, 2 ore a seconda delle videocamere, se no bisogna crescere un po' di più con la capienza. Ci sono poi delle videocamere che hanno una memoria interna, oltre ad avere la possibilità di inserire delle schede esterne, di 32 o 64 GB, che permettono, come di andare in giro, anche se per caso finisce la card o se non se ne ha una a portata di mano, di poter riprendere con una discreta capienza, insomma 5-10 ore di girato. Va anche detto che negli ultimi tempi, anche grazie a questi hard disk molto capienti, molte persone si sono abituate a riversare tutto quello che girano, e quindi si creano delle montagne di dati, e quindi sta un po' esplodendo la richiesta di spazio. Sì, la capienza degli hard disk sta crescendo, e non sta crescendo parallelamente la capacità degli utenti di organizzare i propri dati. Esatto, dicendo, forse va richiamata l'attenzione per dire, quando avete fatto le vostre immagini utilizzate un software. A proposito di software, finisco la frase, utilizzate un software per magari tagliare quello che non serve, che è evidentemente magari un'immagine che ha poco senso. I software si trovano facilmente, gratuitamente, oppure quelli magari da consigliare costano poco, molto? No, costano anche molto poco, ovviamente sono molto semplici da usare e anche un po' poco flessibili se si vogliono fare delle cose molto particolari. Però per esempio ricordo che il sistema operativo più diffuso, che è Windows, nelle sue ultime versioni offre già gratuitamente, basta scaricarlo dal sito Microsoft, Movie Maker, che è un programma di montaggio che funziona in bassa definizione e in alta definizione, permette di mettere tutte le sequenze in fila, tagliarle, mettere una musica, aggiungere dei titoli, cioè le operazioni più semplici in facilità, ed è completamente gratuito. Su questi poi vengono aggiunti degli altri programmi, diciamo nell'ambito tra i 20 e i 100 euro, che sono quelli più semplici amatoriali ma che sono un pochino più flessibili, e poi si sale fino a quelli che invece vengono usati anche in ambito professionale, come Premiere Pro, Final Cut Pro, eccetera, eccetera, tutti gli altri programmi, Vegas, Sony Vegas, che vengono usati invece più in ambito professionale, che hanno costi anche molto elevati. Sì, certo. Senti, le connessioni che sono disponibili ormai, USB? Assolutamente sì, tutte le videocamere digitali in questo momento hanno il collegamento USB. Attenzione a non confondere USB, per esempio, col FireWire, che era delle videocamere DV, o peggio ancora con le semplici uscite audio-video delle vecchie videocamere analogiche. Ho citato la USB perché avrei voluto farlo questa settimana, ma non abbiamo avuto il tempo. La prossima settimana faremo un po' il punto su questo tipo di connessioni, perché ci sono molte aziende in giro per il mondo che stanno studiando, stanno sperimentando e stanno progettando nuovi sistemi per connettere questo tipo di strumenti, fotocamere, hard disk, computer, eccetera, eccetera, e cercano di velocizzare e di creare connessioni a più ampio raggio, quindi con velocità molto più elevate. Andiamo in provincia di Reggio Emilia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho una domanda che si rifà un po' anche ai tempi passati, cioè alle riprese con video 8, comunque con il Super 8, diciamo, quella che era la pellicola, intendo la pellicola, che poc'anzi dicevate poi doveva essere sviluppata. Ecco, che tipo di risoluzione bisognerebbe avere in megapixel con un sistema digitale per avere la medesima risoluzione di quelle pellicole? Ovvero, prima mi sembra di aver capito che un Full HD è sui 2 megapixel come risoluzione. Che tipo di risoluzione dovremmo avere per avere la stessa risoluzione che avevamo con la pellicola analogica? Bella domanda, grazie Marco. Gianfranco, hai 2 minuti. Ma molti meno, la pellicola era molto piccola, si chiamava 8 o Super 8 perché era 8 mm in larghezza, sì. E il fotogramma era molto piccolo, ovviamente niente a che vedere col 16 e col 32 mm invece del usato cinema. Poi del cinema, sì. Quindi la risoluzione era comunque molto bassa, dettata anche dalla qualità delle cineprese. Una videocamera Full HD riprende oggi nettamente meglio della miglior cinepresa amatoriale 8 o Super 8 dell'epoca. Quindi siamo già nella risoluzione più alta. Non perché la pellicola in se stessa non avesse intrinsecamente la capacità di avere una risoluzione più alta, ma perché l'intero sistema, pellicola, qualità della pellicola, sviluppo, cinepresa, ottiche usate dalle cineprese amatoriali, che non erano certe quelle del cinema, non davano una risoluzione troppo elevata. La cosa è evidente se per caso vi capita di vedere un filmino, vecchi tempi si può soltanto proiettare ovviamente con un proiettore su uno schermo, e magari usare un videoproiettore Full HD di oggi per vedere una ripresa Full HD. In termini di risoluzione non c'è paragone. Poi qualcuno dice: ma il colore che io avevo dello sviluppo Kodak adesso non ce l'ho più. E quello è una questione poi di estetica, di gusti, ma in termini di risoluzione non c'è paragone. Maria Chiara Grandis, abbiamo l'ultimo collegamento prima di salutarci. Sì, Enrico, in questo momento sta suonando un allarme, quindi sentirete un po' con difficoltà. Io volevo dirvi che in realtà poi qualcuno che utilizza videocamere... No, Maria Chiara, si sente troppo l'allarme, allora dico io quello che avresti dovuto dire tu. Tu hai fatto una passeggiata all'interno del punto vendita, hai sentito, e quindi questa è la seconda parte, sentito alcuni clienti proprio sulle videocamere e fotocamere. È stata mia moglie che ha fatto in modo di acquistarla per le vacanze. Quanto ha speso? All'incirca sui 320-330 euro, compresa di accessori. Forse bisogna prendere forse un cavetto HDMI per riversare direttamente sul televisore. Siamo davanti alle schede di memoria, acquisterai anche una scheda di memoria? Già ce le ho, però magari una 16 giga mi fa comodo. Sto prendendo di paraluce. E dove li salva poi i suoi video? Su un computer. Poi se ne ho bisogno me li trasformi in video per un lettore oppure li lascio lì. Ha acquistato anche programmi di montaggio video? Uso quelli che ci sono nel computer. Non li lascio in cassetta, quello è il problema. Pigrizia. Videocamera in 3D, cosa ne pensate? Al momento non regge ancora il discorso, secondo me. E questa era Maria Chiara Grandis al Saturn di Napoli in via Arenace. È tutto per questa puntata di 2024. Grazie a Gianfranco Giardina. Ciao Gianfranco, a presto. Grazie mille. E grazie a Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato 15:30. 2024. 31 seconds and we're...